si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Fiori di ciliegio su capelli sporchi, un altro lurido inverno dai giorni troppo corti. Oggi mi vesto di nero come il sangue dei morti. Il cemento non ha odore, il cemento non è un fiore. La vita è bella ma... Eccoci qua, buongiorno cari ascoltatori, buongiorno da Alessio Maurizi. E da Carlo Gavardini, buongiorno e buona domenica a tutti. Allora, cominciamo così questa puntata di Si può fare con Fedez. Il cemento non è un fiore. 800 24 0024, cominciate a chiamare i vostri a prenotare il vostro intervento in diretta, perché partiamo subito con la notizia della settimana per quanto ci riguarda, che non è una buona notizia. Intanto diamo il buongiorno a Gian Antonio Stella del Corriere. Buongiorno Stella, buongiorno. Grazie per essere con noi. Sta andando, lo diciamo, alla cresima della nipote? Possiamo... sono anche un po' affari miei, comunque sì. Scusa. Voglio dire che sono... no, io non mischio mai le cose. Hai ragione. Voglio era dire semplicemente... che purtroppo ho un problema e quindi vi devo lasciare fra poco. Non ha moltissimo tempo, questo volevo dire, questo volevo dire. Sì, la notizia incredibile è questa. Cioè, la Liguria, lo sapete, forse lo saprete, perché tra le righe dei giornali qualcuno l'ha pubblicata, dandogli un po' di spazio. Noi abbiamo cercato anche di invitare Toti, il presidente della regione, ma non è voluto venire a spiegarci il perché di un piano in 11 punti che tu hai descritto sul Corriere benissimo, dicendo perché è sostanzialmente una follia parlare di un piano casa oggi nel 2015 in Liguria in quel modo. Stella, perché? Perché, cioè, voglio dire, io metto, ho dato i dati sul Corriere, purtroppo non si, alla radio non si possono mostrare le tabelle, ma le tabelle sono impressionanti, assolutamente impressionanti. Se quando vedi il grafico vedi che non so, tutte le regioni sono più o meno a metà del grafico, la Liguria schizza a proporzioni enormi, cioè, è pazzesco. Cioè, la Liguria ha a rischio una, perché hanno costruito sui fiumi nelle aree di pericolosità idraulica, la Liguria ha 30,1% del territorio a pericolosità idraulica, e il secondo, che sono le Marche, a 13, non so se mi spiego. Cioè, stiamo proprio a staccato tutto. In una situazione come questa, andare a costruire ancora, dopo che persino la parola rappalizzazione è nata in Liguria, come è nata, come è noto, perché la devastazione di Rapallo, la costruzione di città bruttissime per favorire un turismo di massa che non doveva essere, cioè la Costa Azzurra si è presa al turismo d'elite, no, al turismo di massa. La Liguria ha già puntato sul turismo di massa, ha già fatto questo errore negli anni 60. Io non ci andrei in vacanza neanche regalata, devo essere sincero. Beh, sì. Adesso... non capisco perché sì. Uno deve andare a se poi vai a toccare anche le poche isole rimaste, sì, cioè Portofino, Cinque Terre, eccetera, con un assessore talmente preparato, è il nipote di Scajola, evidentemente anche lui assessore a sua insaputa, perché ha promesso che rendeva le Cinque Terre patrimonio UNESCO. Quando lo sono già? Lo sono già dal 97. Questa è stata una figura abbastanza imbarazzante. Stella, sei ancora un paio di minuti, giusto? Un'altra domanda. Sì. Perché io dico, allora, intanto alcuni dati io li ho qua sott'occhio in questo momento, perché di cosa stiamo parlando? La percentuale, per esempio, di ampliamento degli edifici da ricostruire che passano da zone a rischio a zone sicure sale dal 35 al 50%, quindi si amplia. Poi si possono ampliare gli edifici esistenti nei parchi, in tutti i parchi, parchi naturali, stiamo parlando di questo, abrogate norme che contenevano limiti alla progettazione degli interventi, così come si possono ampliare o fare cambi d'uso per pertinenze che non superino 200 metri cubi e non sono bruscolini. Ma perché secondo te una cosa del genere? C'è sottovalutazione da parte della Giunta della Liguria, c'è ignoranza, c'è l'idea ancora questa di attaccarsi a tutto per far ripartire l'economia, ma viene da piangere, però se siamo appesi al piano casa nel 2015. No, io capisco che ci sia la necessità di far ripartire l'economia e questa è una cosa virtuosa. Fatela ripartire sistemando le porcherie, no? E mettendo a posto le porcherie, facendo un lavoro di rammendo, come lo chiama Renzo Piano, un lavoro di ricucitura col territorio, ma fare diventare economia in un mondo che punta, voglio dire, qui ipertecnologico, in cui gli stati più avanzati fanno, puntano tutto sulle tecnologie, noi puntiamo ancora sul cemento, ma è una ricetta vecchia come il cucco, cioè, è perfino imbarazzante che qualche nostro, qualche persona che, voglio dire, che è stata eletta dai nostri cittadini punti ancora su questo, è incredibile, è vecchia come, non so, è come puntare sui cavalli a vapore, non so come dire. È come puntare sulla macchina per scrivere, direi. O rilanciare tutto sulla macchina per scrivere, rilanciare la produzione di locomotive degli anni dell'Ottocento, è come puntare sul telegrafo, ecco. E cercare di vendercela come una novità, peraltro. Sì, ma dai, se Totti pensa di rilanciare l'economia rilanciando il telegrafo, o il cembalo scrivano, la nonna, siamo fritti, la siamo nonna fritti della macchina da è perfetto, siamo partiti da Fedez e siamo al cembalo, direi che è perfetto. Senti, ancora 30 secondi se ce li hai su un'ultima questione che ti voglio chiedere, sì. È questa, perché il treno sta rallentando bene e quindi siamo agli sgoccioli, perché tu dici facciamolo un piano di rilancio dell'economia ristrutturando, recuperando, facendo il rammendo delle periferie. La domanda però è: chi dovrebbe mettere i soldi, investire su questo? Perché quando si parla di piano casa sono i privati, diciamo, a spingere, e lì possono fare quello che gli pare se la gente ha dei risparmi da parte, ed è la speranza, io credo, di Totti, no. Secondo me è sbagliata, ma nell'altro caso ci sono i soldi pubblici per fare questo, secondo te? Ci sarebbero? Ma secondo me se si cambia strategia e se si punta sul paesaggio, sul turismo, su un turismo diverso, se si rilancia il turismo facendo delle cose serie, cioè, in questi anni siamo andati avanti con l'Enit, che è stata lasciata adesso a Evelina Cristellen in condizioni davvero penose, insomma, no? C'erano 78 dipendenti e tutti i 78 hanno chiesto di non restare all'Enit perché prendevano 84.000 euro l'anno, e cioè 22.000 euro in più di dipendenti della Casa Bianca. Come adesso all'Enit finalmente pare, perché voglio vedere alla fine, pare che si faccia le cose sul serio, tutti quanti dicono: ah no, grazie, io sono in mobilità, preferisco restare statale, c'è traduzione, preferisco restare con un stipendio altissimo e lavorare pochissimo con tutte le sicurezze del caso. Ma insomma, non mi pare questo il modo per venire fuori dalla crisi. Il turismo è cresciuto nel mondo in modo enorme. Intorno all'80% negli ultimi 20 anni, nessun settore è cresciuto così tanto. L'Italia sta praticamente 25 punti sotto nella crescita del turismo. Vogliamo chiederci essendo poi la Liguria un luogo che si presterebbe anche a fare del turismo di grande qualità, penso a alcuni luoghi stupendi come quelli che ho citato, e anzi ancora ce ne sono. Beh, insomma, puntare invece su costruire, su fare una delle nuove Sesto San Giovanni in riva al mare, mi sembra veramente una sciocchezza. Va bene, grazie mille, grazie Gian Antonio Stella, buona domenica. Grazie mille, buona domenica. E vabbè, insomma, era giusto partire di qua, e abbiamo voluto sentire Stella, che non è un pericoloso sovvertitore dell'ordine costituito, un ambientalista sfegatato, uno che normalmente scrive contro tutte le opere pubbliche, insomma è un giornalista equilibrato, che guarda i dati, guarda i fatti e mi sembra molto preoccupato. È interessante anche la conclusione di questo discorso, che dice: guardiamo alle risorse che derivano e potrebbero derivare ancor più dal turismo, per investirne magari una parte con una regia nazionale dell'Enit. Adesso non c'è più il Ministero del Turismo, ma qualche cosa del genere, per quindi individuare le zone che vanno recuperate, riportate a una condizione, diciamo, di fruibilità turistica, ma soprattutto di un punto di equilibrio per quanto riguarda la tenuta del territorio proprio, perché questo piano casa ha degli elementi di rischio, di pericolosità. Mi dispiace che Toti, il governatore, non sia voluto intervenire, neanche l'assessore Scaiola, il nipote, perché gli avremmo volentieri fatto molto. Alcune domande. Ma come mai non sono intervenuti? Perché non erano disponibili. Va bene. Scusami, come sai, non sono il giornalista, quindi ho fatto la domanda giusto per capire. Mi sembra indicativo anche il fatto che non abbiano, che abbiano deciso di non intervenire. Ecco, 800 24 00 24, voi come la pensate, cari ascoltatori, su questo? E poi cerchiamo un personaggio della settimana. Il primo indizio che vi do è che è un simbolo. Un simbolo, cerchiamo. Vai, cominciamo. Funk you up, uptown funk you up. 'Cause uptown funk don't give it to you. 'Cause uptown funk don't give it to you. Don't believe me, just watch. E allora, eccoci qua con questa ripartenza. Oggi abbiamo invertito l'ordine dell'inizio del programma. Siamo partiti con Stella, era una delle notizie della settimana. Altre ne andremo ad approfondire. Non era una buona notizia, evidentemente. No, infatti è buono. L'abbiamo quasi tenuta fuori dalla trasmissione. L'abbiamo messa in testa di modo che non la conteggiamo nel minutaggio della trasmissione, la notizia di Genova. Su Twitter, Liguria. Su Twitter, Ugo Iezzi, nostro ascoltatore assiduo, ci scrive: assurdo criminalizzare piccoli ampliamenti privati, non parlare mai dei migliaia di metri cubi in deroga fatti fare. Parliamo anche di quelli, se volete, assolutamente parliamo anche di quelli, però insomma, in una regione come la Liguria, dove avete sentito il rischio, diciamo la percentuale di territorio a pericolosità idraulica è il 30%, il doppio di quello che avviene nella seconda regione italiana in ordine di pericolosità, le Marche, anche un metro o un centimetro quadro potrebbe essere di troppo. O sono esagerato io? No, direi di no. Scusami, sono un po' rintronato. Devo ammettere che io oggi sono stato salvato dall'ora solare, nel senso che se non ci avessero regalato quest'ora più in più questa notte, penso che non sarei arrivato puntuale oggi in radio, quindi sono un po' frastornato e sono contento. Però ti devo anche portare i saluti e i complimenti di un tassista, Perugia 62, che mi ha detto una cosa mitico. Bellissima, perché sono salito sul taxi e mi ha detto: io sono sintonizzato su Radio 24 dall'11 settembre, quello lì, perché ho sentito la diretta di Radio 24 ed è stato talmente, diciamo, l'unica radio che mi stava raccontando tutto, che io da quel giorno non ho più spostato la radio del taxi, e mi ha commosso, insomma, mi sembrava bello. Infatti mi parlava di palinsesto, che penso che prima o poi dovremmo invitare Perugia 62 nel consiglio di amministrazione della radio, perché sa tutto e avrebbe anche delle idee, magari dopo ne parliamo. Adesso abbiamo già un'ascoltatrice in linea da Genova, la sentiamo però dopo il traffico. Torniamo e poi iniziamo anche con i riepilogo delle notizie della settimana. Tra poco 800 24 00 24. Il personaggio, ricordiamo l'indizio, è un simbolo. E anche oggi in palio due biglietti e il catalogo della mostra da Raffaello a Scile, Palazzo Reale a Milano, fino a febbraio. Vai! Stufe, caldaie, termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Si può fare. Cronache da un paese migliore. E allora, eccoci qua. Buongiorno di nuovo da Alessio Maurizi. E da Carlo Gabardini. E allora, con i giorni della settimana iniziamo, perché abbiamo detto Stella non è un pericoloso sovvertitore dell'ordine costituito, come per esempio è Harry De Luca, che è un po' un sabotatore. No, non lo è neanche lui. Non lo è neanche lui. Neanche lui, perché è stato assolto. Beh, però insomma, lui, diciamo che è un po' più provocatore, incita la gente a fare delle cose. Stella ha semplicemente scritto un articolo e noi l'abbiamo chiamato anche per questo, anche per il suo equilibrio, perché se si preoccupa in maniera così uno come Stella, allora vuol dire che veramente dobbiamo stare attenti, cioè, a questi metri quadri di cemento in Liguria. Stai dicendo che se succede qualche cosa ai metri quadri di cemento in più in Liguria, poi ci sarà un processo contro Stella. Antonio Stella, chissà, per istigazione, per, diciamo così, per un parallelismo strano potrebbe accadere. La settimana si è aperta così con l'assoluzione di Harry De Luca. Sentiamo allora nell'ordine la voce di Harry De Luca, che ha detto: confermo però la mia convinzione che la linea di alta velocità, la TAV, va intralciata per legittima difesa nei confronti del suolo, dell'aria e dell'acqua. Concludo confermando la mia convinzione che la linea di sedicente alta velocità in Val di Susa va ostacolata, impedita, intralciata, dunque sabotata per la legittima difesa della salute, del suolo, dell'aria, dell'acqua di una comunità minacciata. La mia parola contraria sussiste e aspetto di sapere se costituisce reato. È così, De Luca. Per quanto riguarda invece i legali della società, la LTF, la società italo-francese che aveva denunciato De Luca, hanno detto rispettiamo la decisione, ma nei momenti di tensione sociale ci sono limiti che gli intellettuali dovrebbero rispettare. Questa è la loro posizione. Sentiamo l'annuncio della sentenza. Visto l'articolo 530 CPP, assolve De Luca Enrico dal reato gli ascritto perché il fatto non sussiste. E poi si è aperto un dibattito, naturalmente, se questa soluzione sia giusta o no, se c'è un limite, se si può dire tutto per quanto riguarda la libertà di opinione. Probabilmente tutto proprio no. No, tutto no, nel senso che i limiti sono ovvi. Intanto i limiti sono innanzitutto quelli della legge, perché la diffamazione, insultare, certo, non si possono, un sacco di cose non si possono. Ma posso la dire propria... Gabardini sei un ladro, esatto, di polli. Esatto, oppure dovete uccidere Gabardini e scriverlo sulla prima pagina del giornale. No, però il fatto che ci sia una posizione per dire io non sono d'accordo con questa cosa che si sta costruendo, beh, quello sì, ci mancherebbe. Allora 800 24 00 24, cari ascoltatori, voi come la pensate? Intanto sentiamo Edda che ci chiama da Genova. Buongiorno. Buongiorno. Io sono una vostra ascoltatrice, io ho tutte le mie radio, compreso il cellulare con cui sto parlandovi, che sono tutte sintonizzate sul vostro canale. Quante radio ha Edda in casa? Non c'è, una, due, quattro, diciamo. Otto radio? È stupendo, sta cercando un castello. Di fare concorrenza al tassista che dicevo che era sempre sintonizzato su Radio 24, sì. E lei giustamente dice io ne ho quattro sintonizzate su Radio 24, sì, quindi non è che qua... Avevo capito otto addirittura. Mi sento col cellulare, perché non c'è altra radio che mi soddisfi come la vostra. Questo è fantastico. Non ci emozioni troppo. Su cosa voleva intervenire, no, però? Adesso no, non si sciolga. Su cosa voleva intervenire, Edda? Senta, che il tempo io è prezioso. Volevo far presente, ho sentito il dottor Stella poco fa che ha parlato appunto della Liguria, delle cementificazioni, sì, queste cose qui. Una cosa che sfugge al dottor Stella, penso che fa presto a documentarsi, e anche al nostro presidente di regione, che è una cosa che ci sono tantissimi appartamenti vuoti, costruzioni vuote, inutilizzate. Questo però è da rafforza il concetto, ecco, rafforza il concetto. Altro cemento. Si può fare un ripristino intelligente. Assolutamente, no? Sì. Una cosa un po' più sensata. E sì, credo che sia più difficile. Più utili quello che c'è già, che è esistente, renderlo più utile, più magari adeguato alle esigenze attuali, ma non certo versare altre colate di cemento. Insomma, perché io a Genova ci vivo, ci sono nata, e spero di morirci, però la conosco il più tardi possibile, speriamo, quando piove, ecco. Va bene, ha ragione da vendere, perché insomma questo fra l'altro è un grandissimo tema per l'Italia, ma per qualunque perché paese, perché costruire nuove abitazioni, insomma, quando ce n'è tantissime, sfitte non usate, potrai non, ancora costruire in qualche posto forse, però ci sono tantissimi appartamenti vuoti, no, sì, tantissimi edifici, credo che la difficoltà sia nel momento che io ti sto dicendo questa casa va tolta, va abbattuta perché è in un luogo in cui non si può costruire, tu te ne vuoi costruire un'altra piuttosto che avere un appartamento, che è più difficile convincere le persone ad abbandonare la propria casa per andare in un'altra, però la sfida è sicuramente la soluzione, non quella. Credo ci che sia la cementificazione. Ci sarà un giorno nel quale non avremo assolutamente altra strada, perché esatto, non ci sarà più un centimetro quadro disponibile per nuove abitazioni. Maria Chiara da Varese, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Prego, su cosa vuole intervenire Maria Chiara? Sì, per la risposta alla domanda al simbolo. Ah, il personaggio della settimana. Gioco, ottimo. Sì? Si dica. Chi è? Pelé. Il calciatore? Sì. Perché? Ah, per un così un'intuizione che probabilmente è sbagliata, perché in settimana ho sentito una servizio in cui parlavano di Pelé, lo descrivevano come un personaggio sì, ma perché un po' d'altri tempi, assolutamente, che era un simbolo, assolutamente. Che era il suo compleanno, se non sbaglio, sì, è stato il suo compleanno. Sì, esatto. Sì. E mi aveva 75 anni. Stamattina simbolo l'ho associato a quello, tutto lì. È un grandissimo simbolo. È un grandissimo Pelé, simbolo. Poi ci si batte tra quelli che stanno con Pelé, quelli che stanno con Maradona, ma adesso non apriamo il dibattito. Non era il personaggio che abbiamo pensato. Abbiamo fatto la domanda perché noi ci piace chiedere i personaggi, anche perché ci piace sentire altre storie. A volte qualcuno propone dei personaggi che addirittura noi diciamo: orca, forse dovevamo scegliere questo come personaggio. Quindi ci piace farvi raccontare le storie. Allora, sentiamo un'altra voce della settimana, su una notizia della settimana. Vogliamo sentire, per esempio, partiamo intanto con la base. Vai, ce l'hai la base? Sentiamo velocissimamente Marino, sindaco di Roma Marino, che è tornato sulla scena. Non sono ancora scaduti i 20 giorni per il tempo nel quale lui deve riflettere sulle sue dimissioni, e insomma, ha parlato con i magistrati e dopo ha tenuto una piccola conferenza stampa dicendo queste cose qua. E come prevede la legge soprattutto, ho indicato nella lettera, quindi se l'ho indicato vuol dire che lo pensavo e lo penso, di riflettere e verificare. Mi pare che ho già risposto, se mi fate sempre la stessa domanda. E va bene, questa andava data per dovere di completezza. Siamo in chiusura, voglio dare un'altra notizia, perché la Liguria è anche questo, la Liguria è anche una bella notizia. Oggi ad Albenga si chiude il mese di ottobre di celebrazioni per De André, quindi c'è un grande evento, ci sarà Dorighezzi, ci sono tanti personaggi, Abba Parietti e anche tanti musicisti, oggi ad Albenga. Bello, molto bello, purtroppo io non posso andare perché alle 11:30 sono alla libreria Open a presentare il libro. Fantastico, 800 Book City. 24, cari ascoltatori, ci risentiamo dopo il giornale radio. Cerchiamo un personaggio della settimana che è un simbolo e poi andiamo avanti con le notizie della settimana e anche le nostre buone notizie. Ci proviamo sempre. A dopo. Tutti i giorni alle 9, Mix 24, con i faccia a faccia, le inchieste, i gialli della storia di Giovanni Minoli, dentro la notizia di Mario Secchi, i Salamini di Pietrangelo Buttafuoco, la storia e la musica di Alessandra Fiori e Franco Schifani e tante novità per l'unico programma di Radiovisione. Ascoltaci anche in digitale, sul DAB. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Si può fare, cronache da un paese migliore. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. The weekend comes, my cycle hums, ready to race to you. Eccoci qua, di nuovo buongiorno e ben ritrovati da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. Buongiorno e buona domenica a tutti. 800 24 00 24, ricordiamo anche i nostri contatti, la pagina Facebook Si può fare trattino Radio 24, l'account su Twitter è chiocciola Si può fare 24, poi ci sono anche i nostri account, il mio è chiocciola Ale Maurizi e il mio è chiocciola Carlo Gabardini, se volete interagire con noi in tempo reale. Allora, a metà settimana, visto che stiamo facendo un riepilogo delle notizie della settimana, sempre a caccia di buone pratiche, qua stiamo sulla legge di stabilità. Ospite di Radio 24, il sottosegretario Antonello Giacomelli ha toccato uno dei punti di cui si è più parlato, quello del canone RAI. Il canone RAI che rimane, anche se entra in bolletta e scende a 100 euro, rimane legato al televisore. Si è parlato di altre possibilità, tablet, balle varie, invece è solo il televisore. Però il problema è la questione del pagamento, perché in bolletta. Come si fa? Sentiamo Giacomelli, vai. Rimane esattamente l'impianto della normativa che conosciamo, cioè è il possesso di un televisore che è il requisito. Il tablet può ricevere filmati, sì. Può vedere la RAI online. Assolutamente, non solo il tablet, ormai molti device. Però nella norma che abbiamo introdotto abbiamo solo aggiunto una presunzione del possesso del televisore, che è il contratto di fornitura elettrica per l'abitazione dove si è residente. Ecco, questa era Giacomelli se posso dire fa anche un po' strano, visto, riprendendo le parole di Gianantonio Stella a inizio trasmissione, che diceva investire sul telegrafo, nel senso che investire sul cemento nel 2015 è come investire sul telegrafo, forse un pochino anche dire che è solo il televisore è un po' la stessa cosa, in un momento in cui tutto ciò che è televisione, televisione on demand, la televisione generalista sta un po' morendo e tutti ci si sposta su internet, dire che è una tassa solamente sul possesso di un televisore diventa difficile, perché in realtà la Rai uno la può vedere tranquillamente sul telefonino o su un tablet, e quindi non capisco perché se uno se la guarda su un telefonino non paga il canone. Cari ascoltatori, voi come la vedete? Voi come la pensate? Vabbè, già che ci siamo sulla legge di stabilità, visto che ieri un sottosegretario, lo abbiamo sentito anche noi, Baretta ci ha confermato le cifre, insomma, della legge di stabilità, 27 miliardi, 7 miliardi di tagli, e poi abbiamo parlato di azzardo, perché con una mano il governo diminuisce le concessioni per i punti scommessa da 17 a 15 mila, e all'orizzonte c'è anche un taglio delle slot machine da 400 a 300 mila. Con l'altra mano però il prelievo fiscale complessivo sulla materia è in aumento, più un miliardo di euro. Quindi questo è, diciamo, come il governo si sta muovendo su questo tema abbastanza delicato dell'azzardo. 800 24 00 24, anche su questo se volete potete intervenire. Intanto abbiamo chi abbiamo? Virginia, che ci chiama dalla provincia di Roma. Buongiorno. Buongiorno, come sta? Buongiorno. Noi benissimo. Buongiorno. Virginia, prego. Dica. No, dica lei. Volevo dire una cosa, che io avevo delle radio, sento sempre Radio 24, sì. Però siccome non l'ascoltavo bene ho comprato anche quella digitale, ho detto tutto. Brava, perfetto. Cioè, anche lei è un'ascoltatrice modello, ma dovete essere tutti così, come Virginia. Infatti. E comunque pagherà il canone solo sulla radio, anzi no, solo sul televisore, giusto? Sul televisore. Lo so. Prego, su che cosa voleva intervenire? E sul gioco del simbolo. Chi è il personaggio simbolo? Secondo me è il cavallino rampante della Ferrari. Il cavallino rampante della Ferrari, che, per quale motivo? C'è notizia sicuramente questa settimana. Io mi è venuta in mente questa subito. Sì, sì, sì. Ma è un simbolo di quello. Ma sì, no, ma qual è la notizia? La notizia è che in effetti la Ferrari questa settimana si è quotata. La notizia è che la Ferrari è entrata in borsa si chiama Race. E niente, il cavolino rampante credo sia simbolo. Beh, in effetti sì. Simbolo assolutamente sì, anzi è in linea col personaggio che abbiamo scelto, ma non è il personaggio che avevamo scelto, la Ferrari. Ci spiace, però la ringraziamo di aver chiamato. Brava, prego, prego, brava. Così, anche perché prego. Comunque ha toccato una notizia di questa settimana legata appunto a un simbolo come accidenti a Cipicchia. Era un tranello, possiamo dirlo, era un trappolone. Avevamo pensato che qualcuno avrebbe chiamato per dire e quindi questo. Siamo anche un po' contenti. Si sente dalle nostre voci perché qualcuno ci è cascato. Non era quello il simbolo di cui parlavamo. Laura dalla provincia di Monza e Brianza, buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Buongiorno. Volevo anch'io partecipare per il simbolo. Sì. E penso che potrebbe essere Barbie, perché a Milano si inaugura una mostra Barbie Idol al Museo Etnografico. Sì. E cosa c'è di più simbolo di Barbie? In effetti Barbie è uno dei simboli. Che simbolo è Barbie, tra l'altro? Cosa simboleggia? Boh, è un giocattolo. Beh, è un gioco. È il gioco, è assolutamente un simbolo. Per generazioni, sì, sì. Anche se vabbè, io non avevo, a me non piaceva tantissimo Barbie, non peraltro perché avevo ereditato da una cugina Skipper, che era la cugina di Barbie. Certo, e quindi perfetto, aveva cugina su cugina. Sì, ma poi c'erano varie, varie scuole, sì. Sempre per state. Cui per me insomma era cioè preferivo la Skipper, ovviamente, quella che avevo. Laura, grazie. Anche prego. Perché la mostra su Barbie al MUDEC di Milano è una di quelle in cui collabora l'organizzazione anche 24 ore cultura. Esatto, quindi sarebbe stato un po' un conflitto di interessi. Non potevamo sceglierlo, quindi siamo contenti che abbia chiamato, così abbiamo parlato di questa mostra. Sarà anzi uno forse dei premi futuri che daremo, i biglietti, anche in questo caso il catalogo. Oggi invece, per chi indovina il personaggio della settimana, i biglietti catalogo della mostra da Raffaello a Scile a Palazzo Reale, quindi ancora c'è tempo per rispondere, forse potremmo dare un altro indizio, magari lo diamo dopo la telefonata. L'ultima, prima del traffico, Gaetano dalla provincia di Salerno, buongiorno. Buongiorno. Su cosa voleva intervenire Gaetano? Sulla gestione del territorio. Sì. Prego. Niente, io ritengo che sia importante spostare l'attenzione sulle misure non strutturali. Visto che c'è una crisi economica, quindi le misure strutturali richiedono molti soldi. Nel caso di della gestione ai fini di protezione civile, è importante chiedere, i cittadini debbono chiedere il giusto funzionamento dei piani di protezione civile, sì, che sono uno strumento previsto dalla legge, e quindi un giusto funzionamento di un piano di protezione civile consentirà alla popolazione di salvaguardare la propria vita. Beh, c'è stata tra l'altro, lo voglio ricordare, che... Gaetano, mi scusi, una polemica che ha riguardato il comune vicino al suo Benevento, dove ci sono stati diversi danni, anche delle vittime, e dove il sindaco è entrato un po' in polemica con la protezione civile sull'allerta che era stata data, un'allerta arancione, non un'allerta rosso. D'altra parte qualcuno ha detto: quali sono i piani, come diceva giustamente lei, di allerta e di emergenza organizzati dal comune in caso di appunto di emergenza. Quindi sicuramente è un aspetto importante. Noi l'abbiamo toccato questa mattina, lo ricordo perché l'abbiamo fatto più di mezz'ora fa con Gian Antonio Stella, il tema della Liguria, con la legge regionale in 11 punti che prevede ampliamenti, nuove costruzioni, possibilità insomma di anche con oneri, con aspetti legati a parcheggi, strade, quindi insomma il rischio di cementificare ulteriormente una regione già fragilissima come la Liguria. Ed era questa la notizia che volevamo toccare. Comunque grazie a Gaetano. Vogliamo dare un indizio sul personaggio, un indizio in più: è un simbolo ed ha radici in Italia, così vogliamo dirla così. 800 24 00 24, ci risentiamo tra un attimo. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presenta Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, è notizia di questa settimana, notizia di cui si è discusso moltissimo, insomma, nei talk show, ma per una volta credo anche nei bar, leggendo i giornali se ne è parlato. La notizia è quello che è accaduto a Vaprio d'Adda, dove attualmente è indagato a piede libero per eccesso colposo di legittima difesa il pensionato di 65 anni, Francesco Sicignano, che ha sparato uccidendolo un giovane ladro che era entrato nel suo appartamento a Vaprio d'Adda. I vicini di casa e lui stesso si sono difesi dicendo che da agosto era il quarto furto, addirittura il quinto, che accadeva nel suo appartamento. La voce di Sicignano l'avete sentita credo un po' tutti, perché è rimbalzata in tutti i telegiornali, la sua autodifesa. Poi a un certo punto ha detto: sono rammaricato, però insomma non ha saputo contenere Anche detto: il mio primo pensiero va ai genitori del ragazzo morto, che comunque c'ha 22 anni. Che comunque c'ha 22 anni, era disarmato. I magistrati stanno indagando perché da come è partito il colpo si potrebbe ipotizzare appunto un eccesso di legittima difesa. Fatto sta che, come riferiscono le persone che abitano in quel quartiere, quando subisci 4 furti nel giro di un mese sicuramente hai nervi a fior di pelle. Assolutamente, va anche detto che in realtà ci sono delle indagini che sono doverose da un certo punto di vista, sono doverose anche perché c'è un'incongruenza. Lui dice di aver sparato con il ladro, era in casa e poi si è trascinato fuori, invece non ci sono macchie di sangue all'interno e il ladro è stato trovato morto fuori dall'appartamento. Al di là della dinamica, quindi, quello che io dico, è comprensibile una legittima difesa nel momento che hai qualcuno che è in casa tua e ti sta minacciando, ci mancherebbe altro, e sono doverose le indagini nel momento che uno dice semplicemente: comunque è morta una persona, è giusto che si indaghi per capire come è morta, se è stata legittima difesa ci mancherebbe altro, altrimenti si tratta di qualcos'altro. Sentiamo allora Sicignano. A me, mia moglie, nipote, i figli, i fratelli, è ora di finirla. Ne abbiamo pieni i coglioni. Non me ne frega niente. Sto male, quello che vuole che stiamo. Mia moglie trema, oggi l'ho portata dal medico, ma le sembra una cosa ragionevole? La vera colpa non ce l'ha nessuno, c'erano solo quel branco di idioti che ci sono giù a Roma, perché ci sono politici bravi, ma alcuni sono idioti, perché basterebbe fare legittima difesa a una legge, dare 25 anni a un reato del genere, uno non viene più a rubare in casa. Questo è un stupro psicologico. E allora noi adesso ne parleremo tra poco, cercando di rintracciare una buona pratica che non può essere, diciamolo subito, la pistola sventolata in TV da buon anno, deve essere qualcos'altro. Perché quella è una vergogna, possiamo dirlo, è assolutamente una vergogna portare una pistola. Perché quella è veramente una cretinata, l'ha detto anche il segretario della Lega Salvini. Intanto diamo il buongiorno a Paolo Butti, sindaco di Seveso, buongiorno. Buongiorno a voi radioascoltatori. Sindaco di Seveso, che si trova a pochi chilometri da Vaprio d'Adda, quindi una zona, diciamo, che ha anche una conformazione territoriale, si espone, diciamo, allo stesso tipo di rischi di Vaprio d'Adda. E il sindaco di Seveso, che è tra l'altro uno degli animatori di questa rete di persone, di piccoli gruppi, di associazioni che si chiamano Controllo del Vicinato, che stanno cercando, un po' in tutta Italia, in particolare nell'Italia del Nord sta prendendo piede, di dare una risposta al bisogno di sicurezza dei cittadini e dei quartieri in un modo diverso. Adesso lo sentiremo, capiremo di cosa si parla. Sentiamo però allora buon anno l'episodio della sua apparizione in TV a Sky e la pistola sventolata in TV, e poi sentiamo anche una replica di Renzi. Vai. La gente che mi chiederà il contributo intanto deve avere l'autorizzazione della prefettura e della questura per detenere l'arma. Io do un contributo di un terzo rispetto a quello che costa una pistola, cioè tipo questa pistola qua costa circa 750 euro. L'abbiamo vista la pistola. Io do un terzo, cioè 250. Quando parlano i magistrati devono tacere i politici. L'idea di trasformare questo nostro concittadino in un eroe penso che sia un errore, innanzitutto per la persona e per naturalmente le dinamiche che ancora non sono chiare. E allora eccoci qua con Paolo Butti, lo ripeto, sindaco di Seveso. Senta sindaco, lei come lo definirebbe siciliano intanto? Cioè un eroe oppure semplicemente un cittadino, diciamo, coi nervi a fior di pelle, come abbiamo detto noi? Perché anche nel suo comune, mi raccontava, ci sono parecchi tentativi di rapina. Sì, il nostro comune probabilmente è simile a quello di Vaprio d'Adda, anche pop come conformazione, tante case singole, villette bifamiliari. Io penso che l'aspetto emotivo è comunque un aspetto che va tenuto in considerazione, ma che non giustifica atteggiamenti che vanno oltre quello che è una difesa equilibrata anche rispetto all'offesa. Anch'io stesso sono stato oggetto di furti, però non dormirei mai con una pistola sul comodino. Questo sento di dirlo, perché anche se psicologicamente posso capire, ma non lo ritengo concepibile, anche perché poi i dati dove ci sono paesi dove l'uso delle armi da parte dei privati è molto più forte che sul nostro territorio, i dati dicono che anzi forse il risultato è contrario, ci sono. Ecco, questo va detto, perché per esempio parliamo dell'America, degli Stati Uniti, esatto, d'America, dove le statistiche sono molto chiare, cioè ogni anno in America muoiono per le armi private tante persone quanto ne sono morte in tutta la guerra del Vietnam. Questa è una statistica di qualche giorno fa, terribile, no? Terrificante. Questo è quello a cui si potrebbe andare incontro se accadesse quello che è accaduto in America, dove il possesso dell'arma è più semplice, ci sono meno divieti, meno regolamentazioni. In Italia, tranne rari casi, non è consentito, e via dicendo. Anche se si abbassassero, diciamo, i limiti o se si estendesse il concetto di legittima difesa. Sindaco, però lei l'abbiamo chiamata perché in realtà con il lavoro che sta facendo, il controllo del vicinato, state cercando di dare una risposta diversa allo stesso bisogno di sicurezza. In che modo? Dunque, il controllo di vicinato si organizza attraverso dei gruppi che vengono creati da cittadini che si tengono in contatto attraverso mail, numeri telefonici e creano un'attenzione al territorio, a quello che succede nel proprio quartiere, nella propria via, in un modo condiviso, nel senso che se qualcuno nota qualche cosa di particolare lo riferisce al vicino, senza praticare ronde o appunto controllo del territorio con la presenza fisica nelle strade, ma attraverso un'attenzione diversa a ciò che c'è intorno, che spesso è una delle cose che manca, no? Perché ognuno di noi spesso è portato a guardare nel proprio privato, ma si ferma quando qualcosa succede fuori dalla, dal confine di casa propria. Certo, e ma come, c'è ma come un aspetto sociale. Ma come funziona? Mi scusi, funziona che è una sorta di mailing list e quindi ognuno manda una mail a tutti i propri vicini, o è più tipo una pagina Facebook dove ognuno scrive le proprie impressioni? Guardi, è nato in questo modo. Noi abbiamo creato degli incontri pubblici sul territorio dove abbiamo un po' sollecitato l'attenzione dei cittadini. A questo punto, attraverso anche una modulistica che è disponibile sul sito, il cittadino può informarsi, ogni gruppo ha un referente e ogni gruppo ha una mailing list che è accompagnata anche da dei numeri di telefono, quindi un collegamento WhatsApp che permette di creare questa rete di comunicazione. Che è utile per far passare una serie di messaggi. Facciamo degli esempi, perché lei mi raccontava l'altra volta che in alcuni casi siete quasi sicuri di avere sventato anche delle rapine, perché l'immediatezza del messaggio, il fatto di segnalare persone sospette e di mettere in moto tutta una rete di reazioni, di persone, di chiamate alle forze dell'ordine, eccetera eccetera, può dare anche questo esito. Ci può fare qualche esempio? Sì, appunto, è capitato che alcune segnalazioni poi trasmesse alle forze dell'ordine abbiano permesso di un intervento quasi preventivo rispetto all'intervento che viene effettuato invece dopo che il fatto viene commesso. Quindi in questo senso siamo riusciti a prevenire. Poi con la cartellonistica, appunto, le zone vengono segnalate e anche questo è un deterrente. Devo dire che nelle zone dove sono stati costituiti questi 7 gruppi, sì, da circa l'ultimo è stato costituito 2 settimane fa, il primo un anno fa, non risultano furti in questi ultimi periodi. Ma di che cartelloni? Nel senso che parlava di cartellonistica, nel senso che c'è come un avviso che quella è una zona controllata dai cittadini? Esatto, c'è un tipo cartello stradale dove viene indicato col nome controllo di vicinato e un simbolo. Ma il simbolo che c'è anche sul vostro sito, quello, esatto, giallo, sì, con la famiglia che si tiene per mano. Ah, quindi già, sì, questo potrebbe funzionare da deterrente. Sì. Ma perché io sono curioso di capire quando uno decide di avvisare gli altri, ovvero uno faccio un esempio, vede una macchina con dentro 3 giovanotti che è già 40 minuti che è ferma e questi stanno fissando degli appartamenti. È quello che fa scattare, oppure è una roba più generica che uno dice ho visto 3 persone che non avevo mai visto nel quartiere, che invece magari sono 3 turisti americani che passavano di lì? Sì, anche questo è difficile da noi, una cosa del genere, no? Quindi in un quartiere dove turisti, bene o male le parti sono conosciute, quando c'è qualcuno che si ferma in un modo si segnala in una maniera però che diciamo non crea allarme nella persona che viene segnalata. Cioè non è che se io passo di lì che non sono di Seveso poi qualcuno mi prende e mi porta via, semplicemente c'è questa attivazione, questa segnalazione. Tra l'altro devo dire che anche il cartello, il simbolo che avete scelto è un simbolo molto, come dire, giallo, attira l'attenzione, però è molto rassicurante, c'è una famiglia che si tiene per mano. Zona controllo del vicinato. Non crediate, ascoltatori, che si stia parlando del nulla, perché in realtà è una rete, lo dico io, lei non l'ha ancora detto, è una rete europea quasi che si sta muovendo. Adesso, per dire, in provincia di Perugia c'è un convegno della rete europea dei controlli di vicinato, che evidentemente sta, diciamo, in qualche modo montando un po' sì, anche. Sono pratiche che noi abbiamo preso anche dall'Inghilterra, sì, appunto, siamo all'inizio. Poi tra l'altro abbiamo avuto contatti, siamo stati contattati da altre amministrazioni della Brianza, quindi è una cosa che si sta diffondendo e io, appunto, come dicevo prima, ritengo che sia molto importante anche sotto l'aspetto sociale, no? Perché permette, è chiaro che più le aree pubbliche sono vissute, partecipate, e più creano un deterrente anche a certi fenomeni. Molto di più penso dell'investire risorse dei cittadini per acquistare pistole. Giusto. o per sostenere cause. Direi che già l'espressione bonus pistola si spiega da solo, ecco, è un bonus pistola e per i pistola, non è che abbiamo dei dubbi su questo. I cittadini hanno bisogno di contributi economici per pagare l'affitto che non riescono ad arrivare a fine mese perché perdono il lavoro. Esatto, anche perché rischiamo di essere tutti in mezzo alla strada ma armati fino ai denti. Esatto. Sindaco, grazie per essere stato con noi. Buona giornata e buona domenica al sindaco di Seveso. Mi sembra una bella alternativa alla pistola, anche perché veramente io sono rimasto agghiacciato dal gesto di buon anno. Penso che dal primo gennaio non dirò buon anno, ma dirò felice anno nuovo, perché spero di non usare mai più l'espressione buon anno. 800 24 00 24, cari ascoltatori, naturalmente aspettiamo anche i vostri interventi su questo. Se, cosa ne pensate? Vi ha convinto la pratica del controllo di vicinato che viene da Seveso? Ma ci sono tantissimi comuni affiliati, sono oltre un centinaio, quasi tutti nel centro-nord, ma la rete sta andando sempre più in progressione anche verso il centro e il sud. Gli ascoltatori li facciamo dopo la pausa? Sì, allora ci fermiamo per un attimo, torniamo tra un secondo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua. Allora, come detto, ascoltatori, riprendiamo con i vostri interventi. Guido da Mantova, buongiorno. Ciao Guido. Buongiorno. Buongiorno. Su cosa volevi intervenire, Guido? Era per il quiz. Ottimo. Chi è il personaggio? Ma io ho pensato alla DeLorean, la macchina di ritorno al futuro. Tutta la settimana se ne è parlato. Se ne è parlato tanto perché era il ritorno al futuro dei. Perché l'anniversario, che era l'anniversario, e quindi anni, tutti cos'era? I cinema. No, non è l'anniversario, è che in ritorno al futuro, quando loro vanno nel futuro, vanno il 21 ottobre del 2015 alle 19:28. Se non ricordo male, poi c'è tutta una discussione se è l'ora, quella americana e quella italiana. E quindi siamo andati tutti al cinema, in tutti i cinema. Io stesso sono andato a rivedere Ritorno al futuro. Come si era capito? Parte 1 e parte 2. Non sono sfregatato di questo. Ed è stato bellissimo. Bella risposta, Guido. Non era lui il personaggio. Non era lei, anzi, l'auto. Ci ha fatto piacere ricordare la notizia. E non era naturalmente neanche il film, un annesso e connesso, perché naturalmente, no, lo dico per gli altri ascoltatori, ma anche per Guido, altrimenti avremmo indagato e cercato di portarti sulla risposta giusta, che non era quella. A Bice da Roma, buongiorno. Io ho pensato a Papa Bergoglio perché è un personaggio simbolo e ha radici italiane, perché ha la famiglia in Piemonte. È vero, cavolo, e tra l'altro è anche questo un bellissimo trappolone, ma non era lui. Beh, la notizia sul Papa non c'è bisogno di ricordarla, perché c'è sempre notizia sul Papa questa settimana, poi in particolare tra sinodo e la falsa malattia, assolutamente. Vice, comunque grazie, brava. Grazie di aver chiamato. Una bella grazie, risposta. Ci colleghiamo su questo, sentiamo allora la voce di Padre Lombardi, ce l'abbiamo, perché è una notizia di questa settimana, la diffusione da parte del quotidiano nazionale della notizia secondo cui il Papa sarebbe stato visitato da uno specialista giapponese per un piccolo tumore curabile al cervello. Notizie irresponsabili, infondate, completamente infondate, è stata la replica subito del portavoce Padre Lombardi, sentiamolo. Io ho già fatto una smentita, come sapete, e allora in questa sede io la confermo completamente, e lo faccio dopo le verifiche fatte con le fonti opportune, compreso il Santo Padre. Nessun medico giapponese è venuto in Vaticano a visitare il Papa, non vi sono stati esami del tipo indicato dall'articolo. E poi c'è stata una ulteriore replica del quotidiano nazionale che ha confermato, lo diciamo così per completezza, citando ambienti vicini alla clinica di San Rossore, dove ci sarebbe stato questo incontro tra Fukushima, il giapponese, e Papa Francesco. Anche perché sul suo Facebook di Fukushima ci sono queste immagini dove lui incontra il Papa, dove in realtà sono tutte ritoccate con Photoshop, perché lui ha cancellato tutti gli altri, la folla, diciamo, in piazza. E compare solo lui e sembra che si incontrino da soli, invece non è avvenuto questo. Benissimo, allora andiamo ancora sugli ascoltatori, prima di arrivare al prossimo approfondimento, che sarà tra pochissimo, con un'iniziativa che viene dal basso, di partecipazione dal basso, per salvare uno dei gioielli del nostro patrimonio culturale. Antonia da Bergamo, buongiorno. Buongiorno. Mi ero dato un'idea, potrebbe essere il cane a sei zampe che sparisce dal logo della Saipem? Il cane a sei zampe dell'AGIP, quello che noi chiamiamo quello dell'AGIP, dell'ENI. È un bellissimo simbolo. No, non è questo. L'ho provato. Grazie Antonio, grazie mille per aver chiamato. Beh, vedi come vengono fuori tanti simboli, tante notizie, tante notizie. Tra l'altro, scusa, volevo dire solamente una cosa sulla questione del Papa, che la vera cosa che però mi incuriosisce è come mai sia uscita la notizia, nel senso che il giornale si difende dicendo è il diritto di cronaca, abbiamo pensato che fosse giusto darla, però il fatto che esca proprio il giorno prima che si chiuda il sinodo, è difficile pensare che non ci sia sotto qualche cosa, o sono il solito complottista? Sei un po' il solito complottista, secondo me, sì. Ok. Non so, non ho un'idea su questo, non mi sono fatto un'idea su questo, quindi... Beh, che nel momento che ci sono tutti raggruppati per il sinodo, tu esci con un giornale dicendo forse il Papa sta morendo, forse cambia un pochino le decisioni che uno prende dentro, visto che ci sono delle fazioni pro, delle fazioni contro, i più conservatori contro gli altri, insomma. Sai cosa penso mi io? Sembra un po' la famosa notizia ad orologeria. Penso anche che su notizie di questo genere, naturalmente la salute del personalità potenti come può essere un presidente, di un capo di Stato o il Papa, sono sicuramente notizie sensibili. Mi domando a cosa possa servire all'umanità sapere che Papa Francesco, che è una persona di quasi 80 anni, possa avere una piccola malattia che magari non sarà neanche quella di cui morirà tra 20 anni o 30 anni, adesso gli voglio augurare lunga vita. Questo però è un'altra riflessione che ha a che fare su quali sono le notizie che ha senso pubblicare o non pubblicare. Un giornalista, un cronista col senso assoluto della notizia ti direbbe qualunque notizia va sempre e comunque pubblicata. Poi si possono fare anche altre riflessioni, possono fare sicuramente anche altre riflessioni. Adesso cosa dobbiamo, la pausa? No, abbiamo la pausa, abbiamo Davide da Milano e poi l'approfondimento. Davide, buongiorno. Sì, salve, buongiorno a tutti. Buongiorno. Io chiamo dalla provincia di Milano e abito in una zona martoriata dei furti nelle case. In che zona, se ce lo vuoi dire? Trezzano su Naviglio, non mi nascondo, Trezzano su Naviglio. Trezzangeles. Esatto, sì, purtroppo da un lato. Diciamo che ad esempio mio zio a dicembre 2014 ha subito un tentativo di rapina in una villetta. Proprio quindi aggredito da tre persone incappucciate, fortunatamente è stato reattivo e è riuscito a farli scappare senza l'uso della pistola, però io sicuramente sono vicino alle persone che sono vittime di tutti questi, di queste aggressioni. Assolutamente. Perché infatti il mio tema è perché nessuno si concentra sulla come dire, certezza della pena piuttosto che tutti, diciamo, gli argomenti satellite, quindi la pistola, piuttosto che poi condivido naturalmente. Guarda, la pistola purtroppo è stato chi l'ha esposta in quel modo a farci ragionare su quell'argomento lì, sì, perché non è che si può far finta di nulla che un politico si presenta in una trasmissione sventolando la pistola, magari qualcuno piglia sul serio e va in giro a sparare, è un problema, quindi diciamo quella è responsabilità di Buonanno tutta infatti diciamo è una rappresentazione poi estrema che infatti non è condivisibile. L'unica cosa è che bisogna concentrarsi sotto l'aspetto legale, giuridico, della certezza della pena, che è quello il maggiore deterrente, come si è sempre utilizzato e come in tutti i paesi dovrebbe essere l'unico principale deterrente. È vero. Questo, ecco, volevo dire, perché purtroppo i cittadini sono vittime sempre più frequentemente di queste casistiche e sempre più gravi, perché purtroppo naturalmente in proporzione alla crisi la povertà sta aumentando e la gente si sente impunita, e anche questo è il problema principale, ecco, volevo dire questo. Grazie. Grazie mille. Prego, prego, salve. Grazie Davide. Tra l'altro, restando al partito, diciamo, al quale appartiene Buonanno, quel partito forse potrebbe fare anche una riflessione sulla questione, no? Forse anche un'autocritica sul tema delle ronde. Ti ricordi anni fa, quando c'era il ministro dell'Interno Maroni, abbiamo parlato per almeno un paio d'anni sul tema delle ronde. Non ce n'è nessuna da nessuna parte. Poteva essere una risposta, poteva non esserlo, però diciamo anche quello è stato un po' un buco nell'acqua. Perché in realtà le ronde poi non le hanno mai fatte. Non sono mai nate, chissà perché, per cattiva volontà, non lo so, forse perché era un'idea che non stava in piedi, come qualcuno sosteneva già allora. Fatto sta che non è mai decollato quel progetto di cui si è parlato, c'è stata una legge che lo prevedeva, eccetera eccetera. Quindi forse su questo tema della sicurezza bisogna dare risposte più concrete e meno di pancia, meno di propaganda, altrimenti facciamo sempre i soliti dibattiti sulle ronde o sulle armi, eccetera eccetera, e continua poi tutto e non cambia niente. Ad andare avanti tranquillamente. Noi abbiamo dato il nostro contributo, spero, con la storia del controllo controllo di vicinato, che è una bella storia. Molto bella, un bel modo. Anche se penso che sia più facile in dei centri più piccoli, nel senso che era per questo che prima chiedevo al sindaco che tipo di segnalazioni si fanno. Effettivamente in un posto dove appena arriva qualcuno che non è di lì, tutti se ne accorgono, è più facile. A Milano è più difficile che uno si accorga di una situazione pericolosa. Cioè immagino che la maggior parte delle volte uno segnala delle cose che in realtà non sono niente da segnalare. Allora, torniamo con gli ascoltatori. Alessandra da Milano, buongiorno. Vediamo se indoviniamo, buongiorno, il personaggio della settimana almeno. Buongiorno. Va? Buongiorno. Io pensavo all'ulivo. L'ulivo. Ma stiamo parlando dell'ulivo di Prodi? O dell'ulivo, no, la pianta? Ah. Non il simbolo del partito, ma ottimo, l'albero. Ci ha riportato, okay, indietro. Ok, per quale motivo è questo personaggio questa settimana, l'ulivo? Per la protesta dei proprietari degli uliveti che si sono opposti al taglio volontario degli alberi a causa della xylella. Giusto, è vero. C'è questo braccio di ferro tra il commissario che vuole tagliare, eradicare molte piante di ulivo in Puglia, i proprietari degli alberi. Il TAR gli ha dato ragione, c'è questa diatriba. Tutta la vita la notizia non ma era non lui, è questa, non era lui il personaggio. Però siamo contenti perché la stiamo seguendo la notizia, quindi sì, siamo contenti che qualcuno l'abbia ricordata. Grazie Alessandra, grazie, buona giornata. Andiamo con Luigi da Roma. Buongiorno. Sì. Buongiorno. Buongiorno. Senta, la mia risposta è l'albero della vita alle sponde di Milano. Per quale motivo? È perché è un simbolo che praticamente rimarrà lì nell'ambito della zona di Milano e poi non verrà neanche smantellato e ci ricorderà tante cose. Eccolo là! E con gli applausi, Luigi, si capisce che la risposta è esatta e ha vinto il premio. Siamo molto contenti. Nella settimana in cui inizia l'ultima settimana, sì, di Expo, sì, giusto, ci è sembrato giusto ricordare l'albero della vita, un simbolo di cui si è parlato tantissimo in questi ultimi mesi. E la decisione che è stata presa è quella appunto di che rimarrà all'interno dell'area dell'Expo, quindi non si no, pone Piazzale più Loreto, il problema di Milano, Roma, eccetera, eccetera. Si è aperto tutto un dibattito anche divertente. E questa è la notizia. Grazie Luigi, complimenti. Grazie mille. Porta a casa i biglietti e il catalogo della mostra da Raffaello a Scile, a Palazzo Reale, che sarà appunto allestita fino a febbraio. I bianchi, i neri, la religione, il pessimismo della ragione, la foto di gruppo, il primo giorno di scuola, libertà di movimento, libertà di parola, le otto principesse, i 700 nani, le armi, gli scudi, i diritti umani, i corvi che gracchiano, rivoluzione, però non c'è pietà e non c'è compassione, il sangue si coagula sul pavimento, si inceppa l'articolazione del movimento, la voce che balbetta, la speranza che inciampa, la capra che crepa, la capra che campa, la giornalista scrittrice che ama la guerra perché le ricorda quando era giovane e bella, amici e nemici, che comodità, villaggi di fango contro grandi città. Salvami, salvati, salvaci, salviamoci, salvami, salvati, salvaci, salviamoci, salvali, salvami, salvati, salviamoci, salvami. Una mobilitazione per salvare il castello di San Mezzano. Buongiorno a Francesco Esposito, che è referente del gruppo Save San Mezzano. Francesco, buongiorno, buongiorno a tutti quanti. Buongiorno. Buongiorno. Una storia questa che va avanti da un po', un castello straordinario, bellissimo intanto, perché dove l'abbiamo visto? Anche in dei film, insomma, più di una volta. Sì, in diversi film, in diversi spot pubblicitari, e qui stiamo parlando del più importante esempio di architettura eclettica in Italia. Cioè, l'architettura eclettica? Sì. Questa architettura mescola differenti stili artistici, in questo caso quello arabo, indiano, ispanico, bizantino, è unico nel suo genere, per questo è importantissimo che venga salvato. Sì, sbaglio o era anche nel film Il racconto dei racconti di Garrone, o ricordo male? Sì, certo, è quello, è lui. Descriviamolo un attimo, perché esatto, magari qualcuno siamo in radio, alla dobbiamo radio purtroppo non si vede, quindi usiamo le parole. C'è tutta Italia che è su Google, che sta andando a cercare per vedere un'immagine, invece se ce lo racconta su Google, altrimenti sulla nostra pagina San Mezzano ci sono un sacco di foto, io ve lo racconto esatto, in 5 secondi. Praticamente ci sono delle stanze realizzate in stile arabo, in stile persiano, in stile bizantino. Chi ha visto l'Ambra di Granada o chi ha visto il Taj Mahal di Agra e si potrà rendere conto di che cosa stiamo parlando, perché è molto simile, gli interni sono praticamente identici. E sono straordinari perché ci sono pavimenti con mosaici, volte coloratissime, senza, appunto in stile bizantino, anche i colori che si mescolano, tantissimi archi, mosaici, una cosa incredibile. In anche l'esterno è molto bello, è molto elegante, c'è un grande parco che lo circonda. E perché il castello di San Mezzano è finito all'asta? È finito all'asta perché è in stato di abbandono da 30 anni. Pensa. Cioè, l'ultima società che l'ho acquistato nel 90, era già in abbandono da 10 anni, poi una società l'ho acquistato nel 99, non è riuscita a ristrutturarlo perché non aveva i fondi e quindi è in stato di decadenza. Cioè, nel secondo piano ci sono i piccioni e i topi, è una cosa incredibile. Adesso la società è fallita e per pagare i creditori il castello è finito in mano al tribunale fallimentare e quindi, cioè, è andato all'asta. Pensate che con un solo monumento così potresti fare un flusso turistico in pazzesco, qualunque altra parte del mondo, ci sarebbe la fila di persone come a Ezio per guardarlo. Ne abbiamo talmente tanti che non sappiamo più cosa farci, ma non è possibile. Una storia incredibile questa. Francesco, resta con noi, adesso facciamo una piccola pausa per il traffico, poi ci spieghi come è nato il gruppo Save San Mezzano e cosa, diciamo, proponete, perché voi avete delle proposte sul futuro di questo meraviglioso castello. Traffico. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Si può fare, cronache da un paese migliore. Allora, eccoci qua di nuovo, ben ritrovati e buongiorno da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. Siamo in compagnia di Francesco Esposito del gruppo Save San Mezzano, il meraviglioso castello. In che punto esatto siamo della Toscana, Francesco? Siamo nel cuore della Toscana, proprio a 20-25 km da Firenze. Ok, in stato di abbandono, finito all'asta, un'asta che è stata rinviata al 27 ottobre, è così? Sì, perché è andata a vuoto. È andata a vuoto? Sì, non hanno trovato un acquirente. Quindi adesso diciamo che la base d'asta non è uno scherzo, perché... No, è 22 milioni di euro. 22 milioni, sì, di euro. Sì, adesso è passata a 20 milioni di euro. È ribassata, però non abbastanza per trovare qualcuno che lo acquisti. Anche perché ristrutturare tutto lo stabile, i 12-13 annessi ci sono, ed il parco costa 100 milioni di euro. Ah, ecco, questo è lo problema. Consiglio a tutti i nostri ascoltatori assolutamente di andare a vedere su Google, perché sono delle immagini pazzesche. Immagino che le immagini che vediamo noi risalgono a tempo addietro, visto che ci stai dicendo che invece adesso è in uno stato... Ti spiego, le immagini che vediamo noi, che sono anche quelle che postiamo sulla pagina, sono del primo piano, il piano centrale. In realtà il castello è un altro piano, il secondo piano, che è bello altrettanto quanto il primo. Però il secondo piano è quello che ha contatto con il tetto. Ah, che certo. Si trova dentro, esce tutto, che sta cascando tutto quanto a pezzi, ci sono i piccioni. Quello che vedete voi, il primo piano, è quello che è un po' più salvato, diciamo, è quello nelle migliori condizioni. Come lo si salva? Come lo salviamo? E allora come lo si salva? La cosa più bella sarebbe trovare chi lo acquista e chi ne fa un museo. Cioè, capito, chi lo rende comunque accessibile a tutti quanti una volta averlo ristrutturato. Sì, è che magari, e secondo voi, se potrebbe... uno ci mette 20 milioni poi ce ne mette 100 per ristrutturarlo, magari poi ci va a vivere. Secondo voi potrebbe stare in piedi una cosa del genere, cioè in fare un investimento, che poi era il progetto che aveva il proprietario, che adesso, diciamo, per il quale poi è finito all'asta il castello? Allora, perché c'era l'idea di... Sì, l'investimento dell'edificio è quello di cui tutti quanti hanno avuto l'idea: farci un resort. Anche chi l'aveva acquistato ora vuole farci un resort di lusso. Esatto, e però voi siete contrari, voi dite che così diciamo resterebbe in mani private e si perderebbe la possibilità per tutti di poterlo visitarlo, ammirare. Però allora che fare? Allora che fare? O si trova chi investe, o lo trova lo Stato che investe, o altrimenti con noi, con il sostegno delle istituzioni, il sostegno dei media, siamo disponibili anche a fare una nuova raccolta fondi più seria, più strutturata. Però noi per fare questa cosa dobbiamo avere il sostegno dichiarato delle istituzioni. Ci occupiamo di tutto quanto, cerchiamo gli investitori, contattiamo mezzo mondo, però c'è bisogno del sostegno delle istituzioni e dei media. Ci vogliono degli sponsor certo, disposti, diciamo, a dare una mano, a comparire in qualche modo in cambio della possibilità di farne, per esempio, perché no, non un resort, ma magari un museo, quindi con una capacità di incasso magari minore, ma comunque in qualche modo garantita. È un bene fruibile a tutti, cioè, è un bene italiano che secondo me va salvato perché è unico nel suo genere, non c'è nient'altro del genere in tutto il paese. Vuoi ricordare i vostri contatti, chi vuol darvi una mano, chi vuol partecipare, insomma, essere lì con voi? Certo, certo, chiunque vuole contattarci basta fare basi su Facebook, cerchi la pagina Save San Mezzano e ci scriva. Noi rispondiamo sempre a tutti quanti, ci contattano centinaia di persone al giorno e noi puntualmente rispondiamo a tutti. Save San Mezzano, quanti siete Save adesso, quanti like avete su Facebook? Poco più di 28.000. Insomma, sì, comunque insomma la pagina è nata da 20 giorni, no, non è stato fatto poco. Voi pensate che grazie alle condivisioni delle persone abbiamo raggiunto 5 milioni e mezzo di bacheche, nonostante siamo così pochi. Cioè, pensate se questa notizia venisse pubblicata sulla pagina Facebook della Repubblica, che ha quasi 2 milioni e mezzo di... Certo. Beh, adesso vediamo, dopo che siete passati a Radio 24 in diretta domenica mattina, esatto, si può fare, cosa succede. Un boom di click, di segnalazioni. Francesco, quante milioni di bacheche ci vogliono per comprarsi il castello di San Mezzano? Tante. Perché forse se la base d'asta fosse 50 milioni di bacheche, ma purtroppo hai 20 milioni di euro. Qui la realtà è che bisogna puntare alle persone, tra parentesi, importanti, alle famiglie importanti, alle aziende grandi come Ferrero, Enzo Agnelli, Berlusconi. Se non si riuscisse veramente a metterli d'accordo, anche a fargli mettere 5 milioni di euro per uno, e per così, 5 per... milioni così. È il governo di unità nazionale, proprio tutti insieme. Sì, tutti insieme. Cioè, tu dici, Francesco, tu dici che 5 milioni di euro per Ferrero sono un po' come per noi 50 euro, 100 sì, euro? Sì, forse meno. Se andate a vedere addirittura, meno. Non lo so, sì, andrebbe capito. Sì. Comunque, ti voglio dare un'altra notizia, Francesco. È questa, non so se conosci, perché è notizia di questa settimana. È stato lanciato un portale che si chiama loveitaly.org, che è esattamente, lo conosci, un portale di crowdfunding proprio per dare una visibilità ai siti archeologici, ai musei, al nostro patrimonio artistico e culturale magari in stato di abbandono come è per il castello di San Mezzano, dargli una visibilità e dare la possibilità a chi vuole di fare una donazione anche piccola. Adesso tra l'altro c'è l'art bonus introdotto dal governo, per cui diciamo che questi aiuti credo che siano in gran parte defiscalizzati, quindi c'è anche una pressione fiscale alleggerita, anzi un ritorno. Quindi potete andare sul sito loveitaly.org, però voi non siete presenti ancora con San Mezzano sul sito? No, non siamo ancora presenti sul San Mezzano. Dovete organizzarvi, dovete attrezzarvi per essere pronti ad accogliere il sostegno, che sarà numeroso, dopo la partecipazione a Radio 24. Speriamo anche noi, perché il castello è una cosa pazzesca, meraviglioso, bello, visto, grazie Francesco, in bocca al lupo. Grazie, complimenti, un abbraccio a tutti gli animatori di questa iniziativa. Del resto, cosa devono fare i cittadini? Questo possono fare: sensibilizzare, creare attenzione, mettere anche qualche urino, però certo arrivare a 22 milioni no, è molto difficile. Giustamente ci vuole un intervento delle istituzioni, nel senso che se parli di un immobile che costa 20 milioni, che poi ce ne vogliono 100 altri milioni per ristrutturare, non è che può essere un singolo che decide di farci un piccolo investimento. Ma magari adesso, se la gara l'asta va di nuovo deserta, può darsi che ne fanno un'altra abbassando la base d'asta. Ma non è detto che sia una buona cosa, perché a un certo punto poi se scende qualcuno lo compra, però magari è un simpatico giapponese che ci vuole fare una pizzeria. 800 24 00 24, cari ascoltatori, ma in realtà siamo in chiusura, sì signori. Sentiamo, allora facciamo così, sentiamo, intanto abbiamo dato già il premio sull'albero della vita, perché era il personaggio della settimana, sentiamo Crozza, ce l'abbiamo su Expo, mentre lo cerchiamo. E a proposito di premio, aggiungo solamente una cosa, perché oggi dopo che vado alla Open alle 11.30 in Viale Montenero 6 qui a Milano a presentare il libro, stasera sono in Puglia a presentare il libro al premio narrativa Valerio Gentile, e ci tenevo a ricordarlo e ringraziarli per l'invito che mi hanno fatto, e quindi oggi faccio troppe presentazioni forse, e comunque sono in Puglia a Fasano e ne sono molto contento. Crozza, vai. Un senso di stanchezza misto ad un sentimento di malinconia, la saudade brasileira, che pare trasformare tutti i turisti in un vecchio e triste Vinicius de Moraes dopo la quarta bottiglia di whisky. Oi, che coda más lunga, l'Expo c'è la massa, son qui da 6 ore, non ho visto una mazza. Vabbè dai, dobbiamo chiudere, era bellissimo questo Crozza in coda a Expo. Io devo ricordare, Crozza, perché gli organizzatori ce lo chiedono, di dire che l'ultimo giorno, il 31 ottobre, si entra fino alle ore 17, quindi non andate oltre perché rimarrete assolutamente fuori, e questo non ha senso, già ci saranno problemi sicuramente di code anche quel giorno lì. Grazie a tutti e buona domenica, ci sentiamo sabato prossimo. Un ringraziamento ad Andrea Piazza. Fabriana, Claudia Schiettone, Lorenzo Nespoli, Carmelo Rolicella oggi in regia con noi. Ci risentiamo sabato prossimo. Ciao da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini e a chi ci ascolta in podcast.